Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Il lancio solo qualche giorno fa in Giappone, Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti, e il risultato è stato questo. Central Park, affollato di persone con gli occhi sullo schermo di uno smartphone in attesa che dalle riprese della fotocamera comparisse un mostriciattolo da catturare. È il caso Pokémon Go, un gioco che unisce un fenomeno planetario come Pokémon, 24 videogiochi in 20 anni con 260 milioni di copie vendute, e la cosiddetta realtà aumentata, vale a dire l'inserimento di particolari virtuali in quel che ci circonda, rendendo il giocatore protagonista a tutto tondo e non solo tramite un alter ego elettronico. Tutti a caccia di Pikachu e compagni, a favorire la diffusione e la gratuità, solo apparente però. Iniziare non costa nulla, si paga durante il gioco, come in molte altre app, per avvalersi dei gadget utili alla cattura ed evoluzione dei personaggi. Ma come in ogni fenomeno virale, non mancano le controindicazioni. Dagli allarmi sull'eccessiva invasività nella privacy dei giocatori, all'aumento smisurato del consumo di batteria degli smartphone, ai casi di guida pericolosa. Negli Stati Uniti. Avevo fatto una promessa a chi mi ascolta e oggi sono qui per mantenere questa promessa. Avevo detto che il primo giorno utile dopo la possibilità di scaricare l'applicazione italiana di Pokémon Go avrei parlato con il mio pubblico, che era così appassionato, mi sei fatto raccontare come ha cambiato la loro vita questo gioco. È già facile vedere in giro per le strade italiane persone con gli occhi fissi sullo smartphone che stanno girando l'Italia. Già sappiamo i punti chiave, già sappiamo quello che sta accadendo, già sappiamo che comunque sta diventando una follia come è diventata in qualunque altro paese del mondo. D'altronde non è peregrina che in una radio che si occupa di economia parliamo anche di questa aspetto ludico. Pensate che dopo il lancio dell'app nella borsa di Tokyo, Pokémon Go ha fatto schizzare il titolo del 93,2%, quindi ha raddoppiato il valore delle azioni della Nintendo, che ha investito in una cosa che tutti hanno sorriso, sembrava una sciocchezza, sembrava una sorta di follia estiva, però questo significa soldi, tanti soldi. Capiremo oggi anche come si guadagna attraverso Pokémon Go, perché l'applicazione è gratuita, quindi tutti diremo, vabbè, ma cosa ci guadagnano loro a far scaricare questo gioco? No, non vi preoccupate, che a parte il movimento in borsa hanno fatto bene i loro conti, certe cose non si fanno per caso. Pokémon è un fenomeno che ha ispirato l'emotività e la nostalgia della generazione di persone che oggi hanno dai 30 ai 40 anni, quindi sanno bene esattamente dove vanno ad affondare i loro investimenti. Io questa mattina ho in studio un ospite chiave per la diffusione del Pokémon pensiero in Italia. Pensate che l'Istituto dell'Enciclopedia Treccani, che è l'istituto più nobile e più antico, che racchiude la summa di tutto ciò che flutto attraverso la nostra lingua italiana, per la prima volta parla oggi di videogiochi attraverso un articolo su treccani.it dedicato a Pokémon Go. A distanza di pochi giorni, venerdì è stata scaricata l'applicazione italiana, oggi è martedì. In 4 giorni, compreso i 2 giorni di weekend, la Treccani acquisisce il fatto che Pokémon Go è un fenomeno da tenere d'occhio anche dal punto di vista linguistico. L'articolo su treccani.it, Pokémon Go, quando la realtà aumentata supera la fantasia, è di Marco Accordi Ricards, che è oggi qua con me in studio. Buongiorno Marco. Buongiorno Gianluca. Allora, Marco è anche direttore di Vigamus, che è il museo del videogioco di Roma, museo che si trova in Prati, museo che, a detta di mio figlio Filippo, che non è voluto intervenire in questa trasmissione, dice non vuole intervenire in un programma condotto dal padre, ma è già un pokemista, sì, mi fa un dito con il dito medio, al di là del vetro, ma però io rispetto il volere dei figli, gli taglierò i viveri da qui ai prossimi 20 anni, perché non contribuisce alla pagnotta quotidiana dandomi una mano, visto che lui viaggia tutto il giorno con il telefonino in mano. Beh, mi dice che proprio al vostro museo Vigamus c'è una palestra di Pokémon. Sì, c'è una palestra perché essendo l'applicazione collegata alle mappe Google, tutti i punti di interesse dove si possono fare delle cose rilevanti nel gioco sono associati a luoghi significativi della città. Però la cosa curiosa è che noi che siamo il museo del videogioco non riusciamo a essere i padroni di questa palestra, perché ci sono dei bambini nel parchetto giochi di fronte che ci bastonano sonoramente tutti i giorni. Quindi i bambini che giocano in un parchettino alle parti di via Sabotino con i loro smartphone in mano hanno bloccato a voi di Vigamos, che è il museo del videogioco, l'accesso alla vostra palestra del videogioco. Sì, l'abbiamo riconquistata per brevissimo tempo ieri, dopodiché ci hanno massacrato di legnate e giustamente hanno dimostrato di essere più forti. Quanti anni hai te? E io ne ho 42. Ecco, questo per far capire che non è un gioco solo per bambini. Sono adulti che ormai si confrontano con i bambini su un piano orizzontale, perfettamente ad armi pari, se non i bambini, che sono molto più veloci, più svelti, ovviamente hanno più tempo da perdere, hanno conquistato la palestrina del Museo del Videogioco di Roma. E palestrina deve essere gestita dall'uomo che è il direttore di questo museo, che scrive articoli per Treccani. Questo è il mondo moderno, cominciate a conoscerlo. 800240024, dove state in questo momento con Pokémon Go? Quanti Pokémon avete trovato? Qual è l'esperienza di conoscenza di altre persone attraverso questo gioco? A tra un istante. Melog, cronache meridiane. Abbiamo una mappa precisissima della città con vari elementi. Ora, io non ho capito benissimo come funzionano questi elementi, però c'è qualcosa vicino a noi. Vediamo, per esempio, che cos'è questo qua? Hungarian Parliament. Ok, ha riconosciuto qualcosa? Ci sono tantissimi punti come questo, come state vedendo adesso, in cui si possono raccogliere Pokéball, penso che si chiamino così, sono quelli praticamente le nostre armi che possiamo usare contro i Pokémon. Ora andiamo a vedere dove usarli. Ora vediamo dove cavolo sono i Pokémon. Una cosa che hanno lamentato tanti utenti è che comunque consuma tanta batteria, in realtà semplicemente utilizza lo schermo, sta sempre acceso, e poi c'è anche il GPS che è sempre collegato. Quindi questa naturalmente tutti ad acquistare power stick, batterie di riserva, perché andando in giro a cacciare Pokémon si esaurisce subito la batteria del telefonino. Non capisco perché mi scrive il primo ascoltatore: questo dimostra la imbecillità della massa planetaria. Ugo, dalla sua saggezza, 65 milioni di persone l'hanno scaricata negli Stati Uniti. Ora, uno che riesce a coinvolgere 65 milioni di persone solo negli Stati Uniti con un giochino e fa schizzare, raddoppiare in un attimo il proprio titolo in borsa, non è proprio un imbecille. Una persona comunque produce lavoro, produce attività, produce movimento, produce attenzione a quelli che sono i flussi e gli accadimenti del mondo moderno, che vanno classificati, vanno osservati, vanno studiati. Se questo è uno strumento di socializzazione, questo è uno strumento comunque che coinvolge le persone in qualcosa di ludico apparentemente, ma che allo stesso tempo permette di allacciare attraverso forme nuove dei contatti reali e concreti, è la versione contemporanea del tavolo da biliardo, della pista delle bocce, della sala da ballo e via dicendo. Ma voi da che parte state? Siete quelli entusiastici che già stanno giocando da venerdì sera, anzi ancora da prima, con l'applicazione australiana, oppure sono quelli che dicono: Dio mio, in che mondo siamo finiti? Addirittura ci sono, lo dico solo una volta usando un termine volgare, però per far capire qual è la visione veteromacista di questo gioco: una volta andavamo in cerca di pelo, adesso andiamo in cerca di Pokémon. È sottolineata da un noto professore che spesso ci assiste nelle nostre trasmissioni. Renzo, buongiorno. Renzo, giocatore. Pronto? Eccomi, Renzo. Sì. Ecco. Sì, io l'ho scaricato, ho provato a usarlo, però non lo so, io mi domando quale possa essere la longevità, perché come gioco, diciamo, è innovativo, carinissimo, molto quanto, però ecco, il discorso della batteria, il GPS che non è chiaramente quello di un navigatore satellitare, spreme al massimo gli smartphone e quindi dopo 20 minuti il gioco finisce praticamente. Se uno non c'ha, diciamo, una batteria di riserva. Non so, guarda, io ti dico adesso se possiamo fare i nomi di telefoni. Io gioco, sì, un iPhone 5 e ieri stavo con mio figlio zona San Giovanni di Agalbia e per acchiappare il segnale GPS è stata una cosa estenuante. Cioè io penso veramente anche quella sorta di... Guarda, io ti dico la verità, io ho scaricato il gioco il primo giorno, visto che non riusciva a collegarsi al GPS, ho tolto l'applicazione. Sì, ma ero stufato, non mi prende... No, ma con mio figlio seduto vicino a me, riusciva a giocare, io no. Evidentemente ci sono dei bug ancora, diciamo, nell'applicazione, probabilmente. Se anche fosse tale il risucchio di GPS, è longevo, quanto sarà longevo? Cioè il biliardo, le bocce non hanno una batteria che si esaurisce, capito? Sì, ma non hanno coinvolto nel giro di tre giorni 65 milioni di persone. Questi sono i fenomeni. Poi vedi, gente, come te, che poi un giorno e poi via, perché chiaramente se poi trovo difficoltà e non è diciamo fruibile con un altro gioco, a quel punto una persona diciamo minimamente più scalda dice ok, se devo bruciare la batteria la brucio per altre cose, tutto lì. Sì. Qualcuno dice potrebbero impiegare il tempo per aiutare il prossimo. Aiutare il prossimo non è divertente, aiutare il prossimo è un impegno civile, richiede sforzo, richiede volontà, questo è qualcosa che diverte. Io che sono una persona che impiega gran parte del suo tempo per cercare di convincere le persone ad aiutare il prossimo più debole, vi dico, divertirsi è bello, non vedo che c'è sempre questa sorta di velo plumbeo della morale, potrebbero fare qualcos'altro, intanto si divertono, la persona si diverte molto più adatta poi e disposta ad aiutare il prossimo. Allora, Marco Accorti Ricards, quali sono i primi problemi che si notano su questo gioco? Ma problemi, diciamo perché che... Perché non riesco a geolocalizzarmi? È molto semplice, perché c'è avuto un tale successo Pokémon Go che i server sono intasati, ci sono dei picchi di utenza talmente incalcolabili, pazzeschi, che chiaramente queste applicazioni saltano e vengono tenute sotto mantenimento, manutenzione continuamente per sistemarle. Però volevo rispondere al discorso della longevità, perché lo dicono in molti. In realtà Pokémon è un fenomeno estremamente longevo, perché il meccanismo da di quanti collezionare anni esistono i Pokémon? Dal 96, esistono, mi sembra. Dal 96, hanno festeggiato 20 anni. Un importante anniversario di 20 anni, non sono mai calati, ma soprattutto sono un fenomeno molto longevo, perché il meccanismo di collezionarli tutti, e attenzione perché mentre nel gioco ora ne abbiamo 121 mi sembra disponibili, i Pokémon sono già adesso più di 700, per cui immaginatevi quanti ne può caricare ancora Nintendo nel tempo e quanto può allungare l'appeal di questo gioco. Inoltre i Pokémon vanno addestrati. Possiamo vanno... rivelare un segreto per quelli che si iscrivono adesso al gioco? C'è un trucco per prendere subito Pikachu. Sì. Dillo, bisogna così. Aspettare, dovete avere un po' di pazienza. Diciamo appena... una cosa che pochi sanno: voi potete subito, appena scaricato il gioco, pigliarvi Pikachu, che è il più noto dei Pokémon. Spiega come si fa. Sì, allora, se volete il top elettrico Nintendo, quello giallo con le orecchie a punta, famosissimo, dovete semplicemente avere un po' di pazienza, perché all'inizio avrete intorno i tre Pokémon starter, quelli da scegliere, quindi Bulbasaur, Squirtle e l'altro di fuoco, e dovete aspettare. Dopo una mezz'oretta circa in cui andate in giro con l'applicazione aperta e non ne prendete nessuno, il gioco, per convincerti a fare qualcosa, ti manda Pikachu. Ecco, voi sapete questa cosa qui, in pochi istanti avrete Pikachu, già qualcosa. Voi dite troppo tecnico, che ne sappiamo noi? No, lo facciamo oggi, abbiamo detto, abbiamo dedicato trasmissioni a minoranze minime, la dedichiamo alla maggioranza che sta giocando con Pokémon Go. Però dateci anche voi un feedback, dove state giocando, in che maniera state giocando. Ci sono persone che hanno già percorso 30-40 chilometri. Mi è arrivata questa mattina una testimonianza dall'Olanda, dove in un centro psichiatrico stanno osservando che alcuni pazienti psichiatrici hanno fatto 150 chilometri in una settimana con Pokémon Go e cominciano a preoccuparsi. Cioè, sì, magari socializzano di più, però dove vanno a finire? Giorgio, buongiorno. Sì, buongiorno, io volevo soltanto dare la mia testimonianza. Avevo sentito la sua trasmissione qualche giorno fa, non so se ieri. Noi ne abbiamo parlato la settimana passata. La settimana scorsa, ok. Ieri andando a Genova a trovare i miei genitori, io abito a Vicenza, ma sono andato giù a Genova a trovare i miei genitori sul lungomare. Ho avuto veramente la sensazione, ma ho potuto constatare visivamente che il 95% delle persone giocava a sto gioco. E la cosa allucinante, secondo me allucinante, poi per carità di Dio è un mio punto di vista, è quella che addirittura ho fermato un giovane per chiedergli spiegazioni di come funzionava sta cosa qui, anche se l'aveva date brillantemente lei nella sua trasmissione. Mi diceva addirittura che questi Pokémon li trovano addirittura in autostrada, e quindi cioè la pericolosità è quella che la gente poi magari guidando in autostrada va a caccia di questi animaletti o che cosa sono, anche in autostrada o anche alla guida. Cioè, io lo trovo estremamente pericoloso questo. Assolutamente vero, tanto è vero che ci chiama adesso un'ascoltatrice, Margherita, che ha qualcosa da dire rispetto ai rischi, perché ci sono dei rischi, attenzione, non dovete dimenticarvi il mondo esterno. Margherita, cosa le è accaduto? No, in realtà non è accaduto a me, ma me lo raccontava ieri sera un mio amico che stava guidando a Roma e a un certo punto ha svoltato da una curva e si è ritrovato davanti tipo quattro macchine con le frecce inserite ferme, e che lui stava praticamente tamponando perché aveva trovato un deposito di Pokémon. Lui ha accostato, cioè si è arrabbiato, ha detto ma che succede, c'è un incidente, no? E tutti stavano col telefonino fuori dalla macchina a cercare i Pokémon. Dove è accaduto questo più o meno? l'altro ieri sera. Ma dove? In che zona d'Italia? Così? San Paolo. Allora, San Paolo a Roma. Avete da segnalarmi altre zone d'Italia dove improvvisamente ci sono dei capannelli di persone, macchine che si fermano, episodi di follia di massa, perché in quel punto magari si nasconde un Pokémon. Al foro di Traiano pare che ci sia una transumanza molto, molto attiva, perché lì c'è qualcosa, ma è stato già detto dai giornali, anche al Colosseo c'è qualcosa. Paolo Accordi Ricards, ci sono altri posti in Italia che ti risulta che ci siano già dei luoghi fortunati per la caccia al Pokémon? Ma ci sono delle questioni riguardanti dei tipi di luoghi, per esempio le polemiche sui cimiteri. Cioè ci si chiede, ma non è irrispettoso che nei cimiteri... Ma Nintendo decide lei dove vanno messi i Pokémon, no? Beh, diciamo che sono appoggiati al sistema di geolocalizzazione di Google. Sì, ma non Google. È che è random, decideranno, mettiamoli qui, mettiamoli là. Credo che ci sia una discrezionalità, però diciamo che tutti i luoghi segnati come particolari sulle mappe di Google vengono automaticamente associati a dei I a cimiteri dei sono pieni di Pokémon. Sì, e poi sono tematici, per cui non so, il Pokémon d'acqua è vicino ai corsi d'acqua, quindi magari sono i Pokémon fantasmi. Quindi, come vedi, c'è una volontà ben precisa di collocarli, non è casuale. Sì, ma io ho letto che per esempio in America ci sono alcune chiese, ho visto per esempio una chiesa evangelica mette fuori degli annunci in cui dice che sono benvenuti gli allenatori, però a patto che non sia negli orari delle messe, perché Dio ama anche gli allenatori di Pokémon. Come ci si adatta facilmente, come la religione diventa uno strumento anche per i Pokémon, che abbiamo già detto l'altra missione, sono stati demonizzati da tutti i radicalismi possibili, sia musulmani che cattolici, in quanto demoni, in quanto vicini al mondo degli inferi. Abbiamo fatto quella divertente parallelismo fra i folletti, i maghi, le divinità assetate di sperma e i Pokémon. Ha fatto tanto ridere e tanto interessato le persone. Ma oggi vediamo Thomas, buongiorno. Buongiorno, no, ascoltavo prima la questione sui capannelli di persone, a quale io ieri casualmente ho partecipato a causa del fatto che uno aveva lanciato un'esca e quindi in una stazione lì vicino arrivavano tutti, ne arrivavano tanti. Ma l'esca cosa significa? Come si fa a lanciare un'esca? L'esca praticamente è un oggetto, uno strumento che uno lancia e praticamente a uno dei Pokéstop vengono attirati i Pokémon. Ah, quindi diciamo, sì, ho capito, è come un richiamo per Pokémon, come il fischietto per le allodole. Uno lo lancia e tutti ne beneficiano. Ah beh, costa qualcosa comprare questo richiamo? Ha un prezzo? Allora... Ha un costo, adesso vi viene dato a un certo livello, ti viene dato così perché l'hai raggiunto, poi se ne vuoi di più ovviamente si paga. Si paga, sì, ovviamente. No, io volevo partecipare per quanto riguardava dei difetti, per esempio, di questa applicazione. Allora, senta, ti fermi un attimo perché devo dare la linea alle informazioni della borsa. Prendi fiato un attimo perché mi servono esperti. Mi serve anche per controbilanciare. Continuo a ricevere sms di indignati, arrabbiati, inveleniti. Panemet Circenses, il pifferaio magico. Eccolo, sono i matti, tutti in giro a cercare i Pokémon. Poi giochi per bambino minchia, nulla facenti, mantenuti, va a lavorare, schifoso, infame, non hai altre cagate per mentecatti di cui parlare. Allora, io non è che dico, esplodo dalla gioia e dalla passione per i Pokémon Go, io faccio il giornalista, io racconto quello che accade. In questo momento sta accadendo questo fenomeno, in questo momento, al di là dell'eco mediatica, può amplificarlo, può anticiparlo e raccontarlo. Concretamente ci sono un'infinità di italiani che stanno girando per il paese con il telefonino in mano, si incontrano, si raccordano e fanno un gioco collettivo. Non credo che nella storia del nostro paese sia mai stata una passione, al di là del calcio, che però divide più che altro, che abbia unito in maniera così indissolubile le persone in un'attività comune, ludica, stupida, faceta, quanto volete, però realmente esiste. Questo è un dato di fatto, è una realtà, è una notizia. Io ne sto parlando perché questo è il mio mestiere. 800240024, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Melog. Cronache meridiane. .800 24 0024, quanto mi diverto a fare trasmissione come questa, che viene fuori tutto l'invidia sotterranea delle persone che non sanno divertirsi con gli strumenti della contemporaneità. È vero, viviamo in periodi terribili, in periodi funesti. Ho fatto io la trasmissione di un ragazzo disabile preso a pugni e ripreso con il telefonino. Pensate quanto può essere sereno il mio animo. Siamo ancora colpiti e storditi dalle notizie degli attentati, dei disastri ferroviari, via dicendo, ma che esista comunque una voglia vitale comunque di fare qualcosa assieme, che sia divertente, che sia, se volete, anche totalmente inutile, non produttivo ma divertente. Non vedo perché vi scandalizzate tanto, vi siete scandalizzati in questi ultimi 60 anni nel vedere masse umane muoversi a guardare 22 persone in mutande che si rincorrono in un campo da calcio. Quello è normale, quello fa parte comunque di qualcosa ammesso. E invece no, se milioni di persone vogliono andare in giro per strada con uno smartphone in mano, perché questo secondo voi è sintomo di follia collettiva? Ho in studio Marco Accordi Ricards, che è direttore di Vigamus, Museo del Videogioco di Roma, si trova nel quartiere Pratico. Ho già scritto un articolo sul sito della Treccani, l'enciclopedia Treccani, che per la prima volta nella storia della Treccani, istituto Treccani in cui c'era il filosofo Gentile, l'enciclopedia della lingua italiana, per la prima volta si rende conto che il videogioco, la videoludica, è qualcosa che fa parte della cultura del nostro paese. E oggi per la prima volta nel sito della Treccani c'è un articolo che parla di Pokémon Go. Senti Marco, mi spieghi velocemente perché questo gioco si differenzia da tutti i pregiudizi che hanno sempre ammantato l'idea della videoludica. Ma allora, il videogioco è stato sempre accusato, tra le altre cose, di rendere i ragazzi, in generale i fruitori, molto pigri. Sempre chiusi a casa davanti a un monitor. Chiusi in casa, sul divano, davanti allo schermo della TV o del PC, a non fare movimento, non vedere gente, essere asociali. Ora, voglio dire, se vogliamo criticare sempre per il gusto di farlo, possiamo farlo, ma sta di fatto che Pokémon Go prende i giocatori, li porta fuori di casa, li fa incontrare, gli fa riscoprire anche monumenti, anfratti, angoli, posti della propria città che non avrebbe mai avuto alcun interesse ad andarci, e poi li fa camminare. Ci sono degli obblighi, no? Ci sono degli obblighi, perché per esempio quando trovi un uovo, che è importante perché ti serve per far schiudere dei Pokémon, certo, magari rari, vorrei vedere, e lo devi far schiudere. Come si fa a farlo schiudere? Lo devi portare in giro, cioè devi camminare. Mica lo puoi covare. Quanto devi fare per allora, far schiudere un uovo? Quelli, diciamo, semplici richiedono un paio di chilometri, però ci sono anche uova che ti chiedono 5, anche 10 chilometri, e il bello è che l'applicazione si accorge se vai in macchina. Quindi devi proprio camminare. Quindi chi vuole giocare deve fare 10 km a piedi, che oggi ogni medico consiglierebbe ad ogni paziente con problemi di sovrappeso. Quindi prendete anche il lato positivo: è un gioco studiato, innovativo, è un passo avanti rispetto a tutto quello che è stato fatto finora. Perché? Perché coinvolge direttamente le persone con quel termine che è stato abusato ma mai applicato in maniera così concreta e produttiva, che è la realtà aumentata. Mi ero interrotto con Thomas, che dovevi sottolineare alcuni difetti dell'applicazione. Vediamo. Sì, no, volevo sottolineare il fatto, per esempio, che nell'applicazione non si può vedere, per esempio, la mappa, spostarsi sulla mappa e vedere magari i giocatori che sono presenti. Così se si vede un campanello di persone, magari si può andare là prima a comunicare, mi posso aggregare, eccetera, eccetera. Quindi non c'è ancora quell'interattività che c'è in altri giochi, diciamo, o anche nelle applicazioni, i siti di dating, in qualsiasi sito di incontri puoi vedere il gruppetto delle persone se le vuoi incontrare. Un parallelismo con un gioco che è stato sviluppato proprio dalla stessa casa produttrice Niantic, che si chiama Ingress, dove lì invece puoi fare queste cose. Vediamo un attimo, perché fermo un attimo, Elisa, pure lei su Ingress deve dire qualcosa, vi spieghiamo questa parola sconosciuta per i più, perché è così legata a Pokémon Go. Elisa. Sì, buongiorno. Io sono stata una giocatrice di Ingress per quasi tre anni, dopodiché con l'arrivo delle nuove generazioni me ne sono allontanata, però ho fatto il mio. Era Pokémon Go senza i Pokémon praticamente, era un gioco di squadra in cui c'era sempre da camminare, c'era sempre da incontrare altre persone. Era legato alle mappe di Google sempre? Praticamente quelli che adesso sono i Pokestop, ai tempi si chiamavano portali. C'è da dire che questi portali sono stati richiesti da noi giocatori, cioè siamo stati noi giocatori di Ingress a creare questi punti di interesse. Non è stata la Niantic che è andata a cercare il capitello in una città sperduta come quella dove abito io, tra l'altro. Dove sei te, Elisa? Dove sei te? Beh, io sono di Zermeghedo, che è il paese più piccolo per estensione del Veneto, che sono 2 chilometri quadrati di superficie. Quindi Elisa, da Zermeghedo, 2 chilometri quadrati, tu comunque spazi nell'infinito mondo, verso l'infinito e oltre, con i tuoi giochi di ruolo e i giochi, diciamo, interattivi. Esatto, sì, sono anche intervenuta da Matteo Caccia l'anno scorso per parlarne. Che sono, devi dire, dai, mi togli il primato di avere scoperto Elisa che vive in 2 chilometri quadrati, ma in realtà spazza nell'universo. Vabbè, dai, va bene lo stesso. Ferma lì Elisa, sì, ferma un attimo Elisa, volevo sentire un attimo Marco Accordi Ricas. Spiega esattamente cos'è questo Ingress e qual è il rapporto con Pokémon Go. Ingress è un gioco molto importante perché è stato il primo grande esperimento, come ha detto giustamente l'ascoltatrice, sviluppato dallo stesso team che poi Nintendo ha contattato non a caso per fare Pokémon Go. Quindi loro si hanno inventato la formula, che era praticamente uguale, una formula fantascientifica. Sì, ma rimaneva un gioco sfigato se non era caricato di un elemento comune, dell'immaginario comune come Pokémon. Sì, perché era una roba astratta, fantascientifica, quindi non catturava davvero l'interesse della massa. Invece, però, per persone come Lisa, che esatto, deve compensare il fatto che vive in un posto sperduto, allargandosi con questo tipo di attività. Però funzionava ed era intelligente, quindi quando Nintendo l'ha visto, sapendo di avere in mano un marchio come i Pokémon, ha contattato Niantic, ha fatto un accordo con loro, gli ha fatto sviluppare un gioco più o meno uguale con la licenza. Non so, adesso la tua esperienza è sicuramente più corroborante di quello che posso dire io, ma di solito questi giochi, la versione Pokémon Go con cui giocheranno fra 6 mesi sarà totalmente diversa, è ancora uno stato primordiale secondo me, ci sarà un upgrade sicuramente. Sicuramente sì, io non credo che sarà totalmente diversa, però arricchiranno gradualmente di alcuni elementi, ci saranno più Pokémon, più strumenti, sicuramente delle nuove funzionalità e correggeranno tutta una serie di bug che adesso per esempio permettono anche alcuni trucchi, perché per esempio prima un ascoltatore ha parlato di esche per attirare Pokémon e quindi creare dei capannelli. Illecita. No, è lecita, però sui dispositivi Android, a differenza di quelli della Apple, se voi riuscite a bloccare l'orologio, cioè ci sono dei modi, delle applicazioni per bloccare il clock del telefono, l'esca che dovrebbe durare mezz'ora, andate alla grande, quindi, avanti. E quindi si catturano Pokémon a bizzeff, vedi, c'è sempre il gioco, abbiamo già dato un trucco. Giuseppe, buongiorno. Giuseppe. Buongiorno Nicoletti, complimenti per la trasmissione. Io sono un imprenditore, 51 anni, di Roma, e nel settore elettrico, e un po' di anni fa, io ero sempre appassionato di giochi, da sempre, e ne ho sviluppati anche alcuni un po' di anni fa, e un paio d'anni fa c'era venuta l'idea giusta insieme a degli amici di fare una startup proprio per fare dei giochi collegati al mondo reale. E usando la realtà aumentata? Usando anche la realtà aumentata, esattamente. Noi abbiamo in mente qualcosa di molto più sofisticato di Pokémon Go, però l'idea si avvicina molto, ci sono molte cose in comune. Abbiamo presentato il progetto, stiamo cercando investitori, l'abbiamo presentato anche al nostro Ministero dello Sviluppo Economico per i fondi Smart Start Italia, e dopo, se considerate questo un anno fa, dopo più di 6 mesi ci è stato detto che il progetto non era innovativo. E dovevamo dimostrare che era innovativo. Abbiamo dimostrato che al mondo non c'era, cioè abbiamo detto guardate al mondo ci stanno soltanto 2 cose ma non sono simili a questa. Ci hanno detto no, si tratta di giochi, quindi per definizione non sono innovativi. Beh, e sei sempre lungimiranti nel nostro paese. Purtroppo in Italia il gioco è solo visto come una cosa per bambini e non per persone quindi grandi. Quindi avevate creato, diciamo, la piattaforma per fare qualcosa di simile. E cosa ci avreste messo come mondo immaginario per unire le persone? Cosa avevate pensato? Beh, adesso non posso svelare tutto perché la cosa ovviamente è ancora calda. Cioè noi stiamo adesso cercando finanziamenti per farla questa cosa. Ma ormai mi si raffredda perché uscire dopo Pokémon Go. No, vabbè, chiaramente abbiamo molte cose in più, però posso dire che sicuramente era un'ambientazione fantastica in cui i giocatori dovevano collaborare, squadre di giocatori devono collaborare per raggiungere degli obiettivi però il tutto è collegato a dei server centrali che fanno però cose in più. Vabbè, bocca al lupo, avete visto giusto, quello sarebbe stata la deriva videoludica dell'umanità, e purtroppo non siamo ancora in tempo, se partivate un po' prima era meglio, magari venire a cercare voi quelli invece di altre persone. Devo dire anche probabilmente a darvi suggerimenti che ci sono varie versioni che stanno già spuntando come funghi di derivati di Pokémon Go. C'è il Pokémon Go che è nato per iniziativa di alcuni ragazzi proprio qua in Italia, poi ci sono quelli che mettono naturalmente immagini di donne nude, discinte, divaricate con vicino tutti i Pokémon per far credere che ovunque se ne possono trovare anche nei luoghi dediti all'adulterio e alla lussuria. 800 24 00 24, a tra un istante. Melog, cronache meridiane. Mi scrive un ascoltatore: buongiorno Nicoletti, ho appena sentito che lei si definisce un giornalista. Viene in mente il suo commento qualche mese fa sulla Villetta Rosa, e sentirla definirsi giornalista, mi creda, mi fa ridere. Mario di Treviso. Ma non so perché la faccia tanto. Non mi ricordo cosa tratti la Villetta Rosa, ma può anche pensare che non sia un giornalista, non è che mi cambi molto. È una qualifica che si dà semplicemente dando un esame, ma uno può fare lo stesso questo mestiere senza dare l'esame e senza avere la qualifica. L'ho detto semplicemente perché io sto raccontando qualcosa che succede, non è che do corpo a una mia mania interiore, sto semplicemente raccontando quello che accade. Me ne dà conferma il pubblico che sta telefonando, che è lo spaccato medio dell'Italia. Quindi informatevi su quello che sta accadendo, poi perdete la vostra posizione, potete anche pensare che è una follia, che il mondo è degenerato, posso anche darvi ragione, che l'umanità va verso un precipizio, posso darvi ragione, che mentre stanno alle porte quelli che ci vogliono tagliare la gola noi giochiamo coi Pokémon, posso darvi ragione, però sta accadendo. Stefano, buongiorno. Buongiorno, salve. Allora, volevo intervenire per quanto riguarda la pericolosità di questo videogioco. Ora, a quanto ha detto quel signore prima che uno trova i Pokémon in autostrada, ora io non ho provato a cercarli in autostrada, però dove l'ha cercati lei? Dove li ha cercati? no, per strada quando cammino a piedi, ma non in automobile a 130 km orari, perché ovviamente, come diceva anche lei, il GPS che non è precisissimo, immagino che salti fa in autostrada, quindi è impossibile giocare in autostrada, quindi non ci sarà la ma io immagino quello era un punto dove casualmente qualcuno ha trovato dei Pokémon, si è fermato, gli altri sono fermati, nasce così, ma è più una scusa per giocare e cazzeggiare, mi si passi il termine molte volte. Questo gioco funziona perché dà l'idea di un cazzeggio collettivo. Si gioca tutti su una cosa che fa sentire bambini. Questo è lo spirito positivo. Poi ci saranno anche delle ricadute negative, ma non ci trovo niente di male. Sì, sì. Ad esempio, il negativo lo possiamo trovare in tantissime cose. Come diceva prima l'esperto delle esche, ok, uno può essere malintenzionato, metto un'esca un po' che stop, aspetto qualche bambino che si avvicina, certo, lo derubo, come è già successo. Ma è successo, è successo. Le esche ci sono. Una volta seminavano le caramelle come pollicino e si dicevano ai bambini: non accettate le caramelle dello sconosciuto. Ecco, le caramelle degli anni 2020 saranno i Pokémon distribuiti, ma in effetti nascono come pupazzi per i ragazzini. Qualcuno mi dice ancora con la pregiudiziale tipo morale. Allora, mi diceva adesso Marco Accordi Ricards che Tinder, che è l'applicazione, il sito di dating dove la gente si illudeva di incontrarsi e poter poi fornicare e fare altre cose, in realtà la maggior parte erano dei robot o delle illusioni, o erano maschi assatanati e sfigati che giravano. Ecco, è stato superato da Pokémon Go. YouPorn, il luogo dove Satana tira fuori la forca e porta la gente nelle fiamme inferno, è stato superato da Pokémon Go. I gestori di YouPorn hanno detto: chapeau, la gente gioca più a Pokémon che rovinarsi le diottrie davanti agli schermi guardando i nostri video. Stefano, buongiorno, ha parlato Stefano. Giacomo. Buongiorno dottor Nicoletti, sono Giacomo, chiamo da Cagliari. Ascolto. Volevo raccontarle un'esperienza, che una cosa che è successa qui a Cagliari da poco. Lei prima dello spot pubblicitario, parlando di Pokémon Go come passione, ha detto che è un fenomeno che sta unendo le persone come solo il calcio fa in Italia, anche se il calcio crea divisioni. Purtroppo devo dire che io sono un giocatore di Pokémon Go, ho 26 anni, quindi non sono un ragazzino, molti mi prendono in giro perché ci sono. Tra i più giovani, l'età media è 45 anni. Appunto, ma ho amici anche più grandi che ci giocano, quindi non mi meraviglio. Io ne ho 60 e non vedo l'ora di reinstallarmelo. Sì, prego. Ecco, il problema è che, come lei ben sa, c'è la divisione in team rosso, giallo e blu, e questo fenomeno che dovrebbe unire i giocatori alla ricerca di Pokémon, in realtà con la conquista delle palestre sta generando anche dei fenomeni di violenza. Cosa sta accadendo alle sue parti? Ci sono gli hooligans dei Pokémon? Purtroppo è successo più volte qui a Cagliari che ragazzini siano stati minacciati da altri gruppi di ragazzini, si è passati anche proprio a uno scontro fisico. Ma più volte, scusi, Pokémon Go in Italia c'è da 3 giorni, quando è accaduto questo? Beh, da 3 giorni ufficialmente, con già con l'applicazione, già con l'applicazione diciamo australiana accadeva. Allora, vediamo un po' se il nostro ospite ce lo può confermare. Allora, Marco Accordi Ricards dice: l'ascoltore da Cagliari sta cominciando l'antagonismo, gli ultra di Pokémon Go. È un fenomeno possibile? Sì, certo. Beh, sì, certo, è possibile. Ma io penso che da un lato un po' di competizione ci stia anche bene, perché il gioco ha sia la dimensione collaborativa, sia anche bello giocare per sentirsi parte di una squadra e cercare di far meglio quello che dell'altra. Fanno i bambini del giardinetto di Via Sabotino. Sì. Se tu fossi un violento, domani andreste con le mazze da baseball a minacciare i bambini, lasciate in pace la nostra palestra, è chiaro. Ma ci sono anche, voglio dire, quando ci sono le partite di calcio tra le squadre dei ragazzini, ci sono i genitori che si menano sugli spalti in tribuna. Non è che l'umanità diventa buona improvvisamente perché c'è Pokémon Go, non vi illudete. Simone, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, guarda, sono Simone Labrati. Leva il viva voce, leva il viva voce Simone, sennò... Ecco fatto. Sì, ci siamo? Sì, rischierai la vita, però almeno ti sentiamo bene. Okay. No, fermati con la macchina però. No, sono fermo. Ecco, sono fermo. Allora, praticamente stavo dicendo, siccome io non so mai dove portare mio figlio, non so mai sempre per pensare dove andare, cosa fare per farlo divertire, per stare insieme, io penso che questo gioco sia una cosa fantastica, perché ora ho l'idea di portare mio figlio, mia figlia insieme, magari in centro a Firenze, dintorni, a caccia di Pokémon e passiamo qualche pomeriggio insieme, diciamo in modo spensierato e divertente. Hai trovato un pretesto per tenerti vicino ai figli? Certo, è quello, ma mi sembra anche un ottimo pretesto. Il viene, sono in casa, e ore e ore a fumarsi gli occhi attorno a quei tablet e tutto il resto. Si dissociano da noi, non abbiamo modo di comunicare in nessuna maniera. Invece penso che questa cosa ci aiuti in qualche maniera a stare insieme ai ragazzi. Poi tutto può essere sbagliato o giusto, è sempre il modo con cui uno lo applica, diciamo, o lo sfrutta. E poi il resto è tutto qui. Fomento un pochino la rabbia delle persone, che forse avrebbero bisogno di sfogarsi un po'. Comprati una zappa e usala sotto il suolo, che poi forse non parlerei più di simili stronzate da invertebrati mentali. Ora, invertebrati mentali cosa significa? Dovrei avere le vertebre nelle mie sinapsi, non so, una mutazione possibile. Simone, ha parlato Lorenzo, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, telefono a Cremona. Qualcuno mi dice sarà il gioco dei padri separati. I padri separati potranno guadagnare punti con i figli, che non saranno più oggetto di ostaggio dei dissapori post-coniugali, perché andranno a giocare con i Pokémon. Anche le mamme giocano con i Pokémon, perché ci sono molte giocatrici che mi stanno scrivendo. Prego, Lorenzo, buongiorno. No, niente, io telefonavo perché io ho realizzato un'applicazione per il telefono. Sì. La mia non c'entra niente con i Pokémon Go, ecco, volevo solo... Ah, volevi farne pubblicità. E cosa succede con questa applicazione? Ecco, praticamente con i filmati che si hanno sul telefonino, con la mia applicazione la si filtra, la si vede con gli occhi del cane, del gatto, del serpente, dell'orso, non so, della mosca, della Vespa, cioè è una cosa per... Dovrebbe chiamare al programma della Celentano, la fa felice, figuriamoci, se glielo dice se la scarica subito. Cioè io posso vedere il mondo con gli occhi di un gattino, di un tenero, esatto, cucciolo, di un serpentello, di un cane, di un serpente, anche di un maiale, anche del maiale. Ecco, abbiamo messo all'interno dell'applicazione un punto di domanda dove chiunque può dire l'animale che preferirebbe vedere. E ma allora... lei come fa a avere la soggettiva della giraffa, del rinoceronte, dell'ornitorinco? Come fa? Chi l'ha detto? Beh, come vedono? Attraverso la scienza, ecco, la scienza. Ma la scienza mica dice com'è la soggettiva degli animali, l'altezza. Ci siamo documentati. Ma la mosca, anche la mosca che c'ha lo sguardo. La mosca, esatto, pluto. La mosca, l'aquila che vede con una lente di ingrandimento ed è per questo che dall'alto vede. Beh, questo è interessante, non c'entra niente con Pokémon Go, però potrebbe chiedere alla Nintendo, offrirgliela e fare il punto di vista di Pokémon, vedere il mondo con gli occhi di Pikachu sarebbe una cosa che veramente ambirei. Astrid, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo lasciare la mia testimonianza perché io non sono un'esperta di giochi, purtroppo non sono un'appassionata, però è successa una cosa particolare ieri sera sotto casa mia. Io abito a Pescia, Pistoia, e ho sentito una grossa una frenata di una macchina. Insomma, affacciata la finestra, una vecchia panda si è fermata, è sceso col telefono in mano, poi un gruppetto di altre 10 persone, poi un altro gruppetto, e quindi ho detto: ma che sta succedendo? E oggi, mentre ascoltavo la vostra trasmissione, avevano tutti il telefono in mano. Avevano investito un Pokémon sotto casa sua? Probabilmente sì, ma poverino. Nel senso che hanno fatto praticamente, giocavano, e io non mi sono resa conto lì per lì di che cosa era, di che cosa stava Lei pensi quando oggi... ce l'avrà su per casa i Pokémon, che c'era la fila per entrare a casa sua? Purtroppo io non ho bambini, ma questo potrebbe essere. Beh, questo aiuta al fatto che gli adulti vengano a casa sua a cercare Pokémon. Anzi, metta un cartello, qui ci sono Pokémon di prima qualità. Ma forse no, che nel senso che ci sono, cioè ci poteva essere ieri sera un groviglio di Pokémon sotto casa mia, può essere. Non ho capito ancora bene come funziona, però ho capito che questo gioco si va a cercare i Pokémon, giusto? Cioè ci sono fantasmi o cose varie che vengono messi. Mi ricordo un ascoltore che stamattina, Alessandro Milan, per l'articolo giornale più inutile, ha letto proprio quello sui Pokémon. Il bello di questa radio è che esistono pareri diversi. Per Milan sarà una cosa inutile, ma va benissimo. Non c'è nessun problema. Io dico che da un punto di vista del profitto e dell'oscillazione di borsa è stato per utile per qualcuno. Allora vediamo Marco Accordi Ricaz. Prevedi uno sviluppo di questo gioco in un secondo che stiamo chiudendo? Secondo me assolutamente sì. Quando un fenomeno